Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Oggi è un giorno perfetto per volare, per staccare l'ombra da questo cortile. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Francesco De Gregori, la ragazza del 95, la storia di una ragazza che prende un volo low cost e parte alla ricerca di qualcosa in cui sperare. Con questo inno generazionale apriamo la puntata odierna che torna a parlare di ordini professionali. Una garanzia della qualità dei professionisti made in Italy o un collo di bottiglia utile solo a irrigidire il sistema bloccando i giovani? Questo il dilemma. Tra poco speriamo la risposta. Oggi vi parliamo anche di un'interessante ricerca sulle aspettative lavorative dei giovani italiani. Mentre la frase della settimana è copyright dell'eurodeputata polacca Cristina Libaka, l'emigrazione non deve essere forzata, deve derivare da un desiderio di conoscere altri paesi, altri datori di lavoro o fare nuove esperienze. Dobbiamo però allo stesso tempo abituarci al fatto che oggi la mobilità studentesca o di lavoro è molto più importante di 20 o 30 anni fa. Grazie ai colleghi di Euronet Plus per questo contributo. E allarme garanzia giovani, oltre 300.000 i giovani inattivi iscritti, ma solamente 7.000 posti attivi e disponibili, di questi 7 su 10 al nord. Parlando al Senato, il ministro per gli affari regionali Lanzetta ha riconosciuto che lo stato di attuazione di garanzia giovani è molto differenziato tra le regioni, problemi soprattutto in Calabria e Sicilia. E ora le pillole da un'Italia che vorremmo vedere scomparire, ce le fornisce il rapporto generale classe dirigente della LUIS. Tra le altre cose afferma che il 26% degli studenti sostiene che gli studenti bravi finiscono col dare fastidio agli altri e possono subire anche atti di discriminazione. Per il 54% degli studenti il merito non è molto apprezzato, si preferisce trovare il modo di superare le prove studiando il meno possibile, ma soprattutto il 60% degli studenti conta sull'aiuto della famiglia nel trovare una collocazione lavorativa. Così proprio non va. Il merito, infatti, non possiamo sempre andare a cercarlo all'estero. Sono stato valutato su base trimestrale per tutta la mia carriera, mi sono dovuto integrare in ambienti diversi, ho dovuto gestire lo stress, tanti lavori diversi, dare assoluta flessibilità. Matteo Frigerio, 34 anni, è Legal Director Corporate and Compliance per Ralph Lauren in Svizzera. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In 10 anni hanno lasciato l'Italia quasi 700.000 laureati, una media di 68.000 l'anno, un salasso competitivo secondo lo studio Editutto. La loro formazione è infatti costata al paese 8 miliardi e mezzo. E il problema non sono tanto le partenze dei giovani qualificati quanto l'assenza di arrivi. Questa circolazione dei talenti infatti resta per la penisola quasi a senso unico, in uscita. Le mete di espatrio preferite dai laureati sono Germania, Gran Bretagna, Argentina, Brasile, Stati Uniti e Australia. Ecuador, Lussemburgo e Messico, questi tre paesi al top delle destinazioni lavorative nel 2014 e secondo l'associazione Internations, Italia solo al 53esimo posto dietro l'Egitto e prima della Russia. Siamo 58esimi per condizione di lavoro, solo il 43% degli expat stranieri è soddisfatto della vita nella penisola e solo il 26% vi vede buone prospettive di carriera. L'unica vera attrattività dell'Italia appare quella emotiva. In testa tra le ragioni di arrivo nel bel paese c'è l'amore, motivo che ha portato qui il 19% degli intervistati. Ma ci sono anche notizie che lasciano sperare. Gli studenti italiani e il mercato del lavoro. Questo è il titolo della ricerca condotta da Ipsos e L'Oréal all'interno del progetto Italian Talents, che ha come obiettivo l'attrazione dei talenti. I risultati nelle parole di Cristina Scocchia, AD di L'Oréal Italia. Il 50% degli studenti italiani, quindi uno su due, vorrebbero comunque cominciare la propria carriera in Italia, nonostante il clima di sfiducia generale nei confronti del nostro paese, nonostante la sfiducia in particolare nei confronti del mercato del lavoro nel nostro paese. Però un ragazzo su due vuole provare a cercare lavoro nel nostro paese perché quello che loro cercano è un datore di lavoro meritocratico che li retribuisca in modo adeguato, che sia rispettoso, che si curi di farli crescere con della formazione continua e soprattutto che gli offra poi dei percorsi di sviluppo e di carriera anche a livello internazionale. E fortunatamente i ragazzi sanno che anche in Italia ci sono aziende così e alcune si possono ancora permettere, nonostante la crisi, di assumere. Se posso riassumere, mi sembra che emerge una richiesta abbastanza forte da questa ricerca. Più meritocrazia, più opportunità, soprattutto più trasparenza forse anche nel mercato del lavoro e delle assunzioni. Sì, il 40% dei ragazzi, senza nessuna distinzione tra i ragazzi italiani che studiano in Italia e i ragazzi italiani che studiano all'estero, dicono che il sistema del mercato del lavoro in Italia non è sufficientemente meritocratico. E questo è un dato che ci deve far riflettere, che non ci stupisce ma ci deve far riflettere e su cui tutti, ognuno nel proprio ruolo, ci dobbiamo impegnare, perché dobbiamo garantire a questi ragazzi un contesto in cui si guardi di più al merito, al talento e ci sia una trasparenza migliore. Per me un dato molto positivo che emerge da questa ricerca è che la fuga dei cervelli non è ineluttabile. A 5 anni dalla laurea, il 13% dei laureati in giurisprudenza sono ancora disoccupati. I fortunati che ottengono un lavoro guadagnano poco più di 1000 euro, sono i dati resi noti da AIGA. In media ci vogliono 21 mesi per trovare il primo impiego dopo la fine degli studi. Quando si raggiunge il traguardo, il 38% fa poco o nessun utilizzo delle conoscenze acquisite in università. Informazione di servizio, il bonus da 80 euro non si potrà sommare agli incentivi per favorire il rientro dei cervelli. In cambio, gli sconti per i ricercatori saranno allungati di 2 anni. Lo prevede un emendamento approvato in commissione bilancio alla Camera. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nella vicina Svizzera, seguendo però un percorso molto europeo. Nome: Matteo. Cognome: Frigerio. Età: 34 anni. Città di origine: Como. Studi: Legislazione per l'impresa. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? Tra Losanna e Ginevra, in Svizzera francese. Perché? Per crescere professionalmente e costruire una famiglia in serenità. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono direttore in area legale per un'importante casa di moda americana. Dove? Ginevra. Tornerai? Forse un giorno sì. Robert Miles, Voyage, Voyage, per introdurre la storia di Matteo Frigerio. Lavoro in un settore dove, almeno in Italia, la meritocrazia è schiacciata dalla burocrazia degli esami di Stato e solo in parte delle lobby, e dove la mia professione, giurista d'impresa, la chiamano, è emarginata agli angoli del mondo del diritto. All'estero, in una multinazionale, sono divenuto dirigente a 30 anni. In uno studio legale italiano navigherei ora nell'indifferenza. In un'azienda italiana farei invece fatica a vincere le dinamiche politiche e burocratiche interne. Così c'è scritto Matteo. Siamo e restiamo un paese corporativo e irriformabile? Guarda, in 2 anni c'è stato un tentativo di riforma che è intervenuto, ma che non ritengo epocale. Siamo certamente un paese vincolato a alcune tradizioni e penso che facciamo fatica in ogni settore a immaginare una diversa organizzazione del lavoro. Esiste un po' la tendenza a dar credito a chi urla o conta di più. Rapidamente la tua storia: nato e cresciuto a Como, decidi di studiare per diventare avvocato, scegli un corso di laurea particolare legislazione d'impresa. Perché? La mia famiglia viene da un mondo della piccola e media impresa e cercavo un compromesso fra più o meno i due mondi, quello dell'impresa e quello del diritto. E a posteriori che voto dai del tuo corso di laurea, soprattutto con l'esperienza poi fatta all'estero? Rimpiangi di non aver studiato direttamente oltre confine? Do un 6,5, 7. L'unica cosa che posso dire che è stata una buona formazione, molto nozionistica. Non ho avuto gli strumenti per comprendere la vera natura del lavoro che avrei dovuto fare. E no, non rimpiango di non aver studiato all'estero. Magari avrei voluto completare l'esperienza con un master all'estero. Vieni selezionato da uno studio di medie dimensioni dove cominci ad occuparti del settore technology, media, telecommunication. Già nel contesto della pratica forense ho cominciato a sentirmi scomodo nel mondo dell'avvocatura, scrivi. Cosa non andava? Per formazione, per quanto insegnato all'università, per cultura, non sapevo cosa aspettarmi dalla vita di studio. Mi piaceva la componente consulenziale alle imprese, ma quella procedurale e giudiziale mi ha un po' stordito. Ho trovato la bolgia delle cancellerie insopportabile, la frustrazione di non aver mai potuto assistere alla conclusione di una causa nei miei anni di praticantato è stata per me terribile. E così arriva la svolta grazie alla flessibilità o lungimiranza del responsabile del tuo praticantato, che acconsente a un tuo distaccamento a tempo parziale presso Yahoo. Nei fatti, l'inizio della tua carriera come giurista di impresa. È a quel punto che si consuma anche la tua rottura con l'avvocatura, diciamo pure tradizionale. Allora, perché prendi la decisione di abbandonare la carriera da avvocato di studio? Le condizioni di vita personale e professionale in azienda erano decisamente migliori. Mi è stato presentato un chiaro piano di carriera. è stato definito nei dettagli, d'altra parte ogni giorno mi trovavo fianco a fianco con questioni sempre diverse, appassionanti, dinamiche, a stretto contatto con l'attività di impresa e in un team internazionale molto affiatato. Per paradosso tu non sei un avvocato riconosciuto dall'albo, superato l'esame scritto ti sei fermato all'orale e qui introduciamo il problema di quella che definisci tu stesso a distanza tra le nozioni del sistema esame e ciò che era ed è realmente utile alla professione. Quanto siderale ti è apparsa questa distanza? Guarda, dal canto mio è stata incolmabile, è possibile che si tratti di un mio limite e l'ho sempre accettato come tale, ma ancora oggi mi chiedo se l'esame abbia il dovere e il compito di testare l'apprendimento di nozioni o capire se veramente fossi in grado di fare il mio lavoro e proteggere gli interessi di un cliente. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Matteo Frigerio, 34enne giurista d'impresa per una multinazionale in Svizzera. Una formazione giuridica alle spalle, Matteo segue inizialmente il tradizionale cursus honorum del praticante avvocato in Italia, prima di cogliere l'occasione al volo di un distacco presso una multinazionale che lo porta a intraprendere una carriera come giurista d'impresa, cambiando più aziende e paesi in Europa. Alle spalle si lascia un paese bloccato, corporativo, ingessato e poco attrattivo che lui osserva dall'estero con forte spirito critico. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Tu le idee ce l'hai anche abbastanza chiare su quali dovrebbero essere gli attori utili a garantire la necessaria scrematura dei migliori professionisti. Dici università e mercato, come? Secondo me la scrematura, come l'ho chiamata, prende atto a uno stadio troppo tardivo, dopo un corso di studi che non ti prepara a superare l'esame e dopo una pratica che è necessariamente legata all'attività dello studio. L'università, secondo me, conosce gli studenti, conosce i candidati ai futuri avvocati ed ha la possibilità di testare giorno per giorno la crescita e la capacità e dare specializzazioni in concreto e lavorare sulle nicchie. Ecco, nicchia, hai detto la parola giusta perché tu sei un sostenitore di quella dovrebbe essere a tuo parere la specializzazione dei giovani avvocati. Sono troppo generalisti? Sì, secondo me sì. Io mi definisco un manager in area legale e se penso a cosa fanno i manager in area non legale, commerciale o finanziaria, cercano sempre un consulente che abbia e dimostri capacità comprovata di dare assistenza su temi di nicchia che io non ho il tempo di conoscere e non mi rivolgerai mai a un avvocato che si dica esperto appunto in diritto civile, commerciale, penale o amministrativo tutto insieme. Premesso che tra poco ci torniamo, ti ha convinto la recente riforma della professione forense partendo dalla questione dell'accesso alla professione? No, è certamente migliore rispetto al testo iniziale che garantiva agli avvocati una riserva assoluta su ogni attività extragiudiziale compresa la mia. Grazie al cielo non si è arrivati all'assurdo di imporre alle aziende una scelta dei candidati, ma non tutti possono permettersi un avvocato e non tutto necessita di un avvocato. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. A 10 anni di distanza mi ritrovo con una carriera trascorsa nei dipartimenti legali di importanti società tech tra Italia, Svizzera, Irlanda e di nuovo Svizzera, prestato al mondo della moda, riassumi Matteo. Qual è stato, ti chiedo, il discrimine fondamentale all'estero che ti ha permesso di correre così rapidamente nella tua carriera di giurista d'impresa? È stata soprattutto un'attenzione totale alla performance, sono stato valutato su base trimestrale per tutta la mia carriera, mi sono dovuto integrare in ambienti diversi, ho dovuto gestire lo stress, tanti lavori diversi, dare assoluta flessibilità. Attualmente dove lavori e di cosa ti occupi? Attualmente lavoro a Ginevra appunto e gestisco per la regione Europe Middle East e Africa tra diverse aree. C'è anche un problema relativo alla tua professione specifica. Ti chiedo come viene visto o riconosciuto il giurista d'impresa in Italia? Perché lo consideri tu stesso penalizzato qui? Credo che guardando alla recente riforma non penso che i due mondi del professionista in area legale e dell'avvocato vogliano veramente parlarsi. Mi sembra che si cerchi come al solito di regolamentare all'eccesso la distinzione fra i due ruoli. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Ti faccio un esempio, parlavo quando ero in Irlanda con i miei colleghi, si parlava dell'esempio dei taxi e della presenza di Uber in Italia e i miei colleghi all'estero mi chiedevano come mai i tassisti non si dotino di un'applicazione come quella che c'è in Irlanda che competa direttamente con Uber. Riassumo per te, più concorrenza. Sì, più concorrenza, non si combatte la novità, l'innovazione, ma si cerca di raggiungerla, di fare altrettanto. E vorremmo sentire anche a livello politico più parole sulla concorrenza. Ci raggiunge ora in linea Alarico Mariani Marini, componente del Consiglio Nazionale Forense e vicepresidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. pomeriggio a lei. Avvocato, per cominciare le chiedo subito un commento alla storia e alle considerazioni di Matteo Frigerio. Emerge una certa distanza tra quella che sembra essere l'impostazione tradizionale, diciamo così, del percorso di formazione e selezione in Italia e la realtà del mondo del lavoro, è così? L'esperienza del dottor Frigerio si colloca un po' al di fuori del normale percorso di accesso alla libera avvocatura in Italia. Lui non ha conseguito un'abilitazione e ha subito preferito. Però la vista alla fine ci ha studiato, insomma, ha un'idea abbastanza chiara. Infatti, però le difficoltà che lui ha incontrato per l'inserimento nel mondo dell'impresa in realtà sono dirette essenzialmente all'impresa, che non agevola, mi sembra di capire, l'accesso dei giovani laureati in giurisprudenza negli uffici legali. Chiedo subito a Matteo quali sono secondo lui i problemi più nell'ambito di avvocatura che comunque ha vissuto all'interno, così li chiariamo subito. Io credo che l'organizzazione della pratica forense sia destinata a in qualche modo a chi può permettersi, si parte da stipendi molto bassi, si parla di grandi momenti di assenza dal lavoro che devono essere supportati assolutamente da un dominus per poter preparare l'esame di Stato, che risulta comunque ancora nozionistico, poco obiettivo e comunque basato essenzialmente su un sistema nozionistico che non tiene conto del percorso. Avvocato, ne approfitto per chiederle anche le novità della riforma della professione forense. Che ci siano difficoltà per l'accesso alla professione di avvocato in Italia è indubbio, anche perché la crisi economica si è battuta su una situazione di difficoltà per l'accesso al lavoro professionale preesistente e determinata da una esplosione del numero degli iscritti agli albi. Con l'ultima legge e con anche i regolamenti che ha adottato il Consiglio Nazionale Forense si sono create delle nuove opportunità. Innanzitutto si è ridotto il tirocinio da 24 mesi a 18 mesi e si è consentito che un semestre venga effettuato nell'ultimo anno del corso di studi di giurisprudenza. Si è stabilita la compatibilità del tirocinio con un'attività di lavoro subordinato, anche presso due avvocati contemporaneamente, per ampliare le occasioni di accesso. È previsto obbligatoriamente un compenso al tirocinante. Di quanto? Un compenso che deve essere determinato in base all'apporto al lavoro dello studio. Non c'è un minimo? Non c'è un minimo perché non è un rapporto di lavoro subordinato. Si parla anche di una legge sulla concorrenza che il Ministero dello Sviluppo Economico sta mettendo a punto, però il problema, l'ha citato anche Matteo Frigerio prima, è un paese nostro dove serve più concorrenza, ci possiamo aspettare qualcosa di più anche a livello ordinistico, e qui parlo di tutti gli ordini, non solo del vostro. La professione dell'avvocato è una professione intrinsecamente competitiva, perché 240.000 avvocati con la libertà di contrattazione dei compensi delinea una situazione di concorrenza che ovviamente trova un limite in quelle che sono le caratteristiche della professione, che non è una professione commerciale. Io ringrazio l'avvocato Alarico Marini e domanda di rito invece per Matteo Frigerio: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? La competenza linguistica. Bisogna veramente essere padroni di almeno una lingua straniera, se non due. Bisogna farsi conoscere e fatevi dare consigli su cosa voglia dire effettivamente vivere all'estero. Non è tutto rose e fiori, ovviamente. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un ingegnere elettrico, settore automazione per lo European Spallation Source a Lund, in Svezia. Scadenza per i CV 7 dicembre, info su e3volte.se. Specialisti nella protezione dei dati per lo European Data Protection Supervisor a Bruxelles. Scadenza per i CV 9 dicembre, info su data-protection.eu-careers. E infine un professore in fisica medica per la Tallinn University of Technology a Tallinn, scadenza per i CV domani, info su ttu.ee. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Siamo arrivati all'ultimo sabato del mese ed è dunque il momento di ascoltare una tra le decine di lettere che inviate mensilmente a giovanitalenti@radio24.it. La missiva di Marco, che ha deciso di raccontarci la sua storia di controesodo in Italia. Marco ci dimostra che è possibile, forse un po' più complicato rispetto ad altri paesi, ma si può fare. Ho 37 anni. Non mi definirei proprio un giovane, ma forse la mia storia può servire ad altri della mia generazione a non smettere di essere curiosi e cercare la propria strada. Nel 2003 mi sono laureato in architettura al Politecnico di Torino con una tesi di progettazione sulle Olimpiadi Torino 2006 insieme a un collega di economia e commercio. Un viaggio a Losanna insieme, la collaborazione con il TOROC, Torino Organizing Committee, capitoli condivisi, due discussioni e molta soddisfazione per il lavoro svolto. Poco dopo faccio un colloquio per lavorare come site manager nel TOROC. Prima un incontro attitudinale, poi quello tecnico, entrambi con riscontro molto favorevole. Mai più sentiti. Decido allora di partecipare al progetto Leonardo per fare un'esperienza internazionale. Vinco una borsa di lavoro presso lo studio Carlos Farrater di Barcellona, in Spagna, dove lavoro su concorsi internazionali e su progetti urbani. Mi ambiento in fretta nella capitale catalana e, muovendomi, trovo clienti ispano-catalani. Decido di mettermi in proprio aprendo uno studio. Poi arriva la crisi, tutto si ferma. Decido di reinvestire nella formazione professionale. Faccio un corso a Barcellona di direzione lavori e decido poco dopo di rimpatriare per mettere a frutto ciò che ho imparato all'estero. Al rientro in Italia, nessuna orchestra né comitati di accoglienza, come è ovvio. Molta curiosità fra i colleghi, ma anche molta diffidenza. Qualche progetto, anche grande. Alcuni cantieri di interni. In sintesi, una prospettiva di lavoro non chiara. Decido di approfondire ulteriormente la mia formazione nel campo del management e partecipo a un Master in Business Administration. Dopo il master trovo un annuncio per project manager e vado al colloquio. Il posto di lavoro sembra molto interessante. L'ambiente è giovane e dinamico. Un progetto di impresa carico di competenze e passione e un master plan architettonico pieno di belle idee. Da quasi 2 anni vi lavoro, con un carico di ore che vi permette di portare avanti anche progetti personali. Durante questi ultimi 10 anni, ovvero dopo la laurea, in molti momenti ho faticato a capire quale fosse la miglior decisione da prendere. E tuttora so che la mia carriera corre lungo binari incerti, ma non ho mai smesso di provarci, mettendomi in gioco e acquisendo competenze specifiche e trasversali. Dell'Italia come sistema so che non posso fidarmi, ma di alcuni italiani sì. E come? Un motivo per restare o tornare. La Ferrara che guarda al rilancio deve puntare anche sui cervelli di ritorno, ne è convinta la Camera di Commercio Locale che a inizio 2015 varerà un bando per valorizzare i giovani talenti residenti all'estero che decideranno di aprire un'impresa nel ferrarese. Saranno offerte attività di affiancamento e incentivi a fondo perduto per riconnettere i giovani talenti emigrati col tessuto produttivo provinciale. Per Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio, meritocrazia, stipendi migliori, meno tasse e meno burocrazia sono la ricetta per convincere i giovani ferraresi a non fuggire o a tornare. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Give Back. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internettivo. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di novembre. È tempo di give back per i giovani italiani espatriati, imprenditori e non. In un momento così cruciale per il paese, quali possibili contributi pensate di dare all'Italia per far ripartire l'economia e ricominciare, soprattutto se li merita? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.